e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi sono senza la parte di cuore, un po' sono anche senza una gola in condizioni accettabili, per cui un'ora e mezza di trasmissione nel corso della quale mi dovrete confortare al massimo, visto che intanto sono senza Nicoletta, senza la mia parte di cuore, perché Nicoletta è a Roma a prendersi a cuore un altro tema molto importante, nella capitale per la conferenza di presentazione della Giornata Mondiale della Vista, che come ogni anno si celebra proprio oggi, il secondo giorno giovedì del mese di ottobre. Niente paura però, perché non mancheranno i temi di cuore che oggi ovviamente non potevano che essere dedicati proprio al benessere della nostra vista. Per quello che riguarda invece la parte di denari, è giovedì, sapete bene quale appuntamento c'è, torna la nostra rubrica Investire Informati, come ogni settimana commentiamo le notizie economico-finanziarie, questa borsa che è ancora molto nervosa, anche stamattina si è aperta male la seduta, gli indici in Europa perdono tutti ben oltre un punto percentuale, quindi faremo come sempre la lettura dei giornali economico-finanziari e commenteremo i fatti per voi, anche per capirli e per capire anche poi come gestire il vostro denaro e investirlo al meglio possibilmente. Peraltro un po' di spazio lo dedicheremo anche alla figura del consulente finanziario, vi racconteremo una storia di successo che arriva da Fidenza e come sempre vi daremo le indicazioni anche per scegliere il consulente giusto per seguirvi. Non poteva mancare in apertura la nostra notizia che abbiamo ribattezzato con i nostri assistenti al programma, la notizia Frufru. L'occhio ci è caduto su uno speciale Guinness dei primati che è stato raggiunto da un DJ di Alessandria, che pensate, io non ce la potrei mai fare, soprattutto date le condizioni di gola di oggi, che è stato davanti ad un microfono della radio per 205 ore. Complimenti, davvero un bel risultato, ma questa storia ci dà l'opportunità di chiedervi qual è la vostra specialità, in cosa riuscite meglio, qual è il vostro personale Guinness dei primati che avete stabilito magari con un hobby, con un'altra pratica. Scrivetecelo se volete divertirvi un po' con noi al 349-238-6666, con lo stesso numero riceviamo sia SMS che WhatsApp, per cui siamo pronti appunto a ricevere le vostre storie. Intanto possiamo partire con il primo approfondimento di oggi. Gli occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati, la bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Quest'anno la Giornata Mondiale della Vista è dedicata alla prevenzione della retinopatia diabetica, una complicanza del diabete. C'è un dato che vogliamo subito sottolineare e che ci dà la misura del problema del quale ci occupiamo oggi. La retinopatia diabetica è tra le principali cause di ipovisione e cecità, soprattutto nei soggetti in età lavorativa, quindi si parla di un range molto ampio, dai 20 ai 65 anni. Proprio per questo motivo l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, l'IAPB Italia Onlus, che organizza in Italia la giornata, ha promosso una specifica campagna informativa per conoscere più da vicino fattori di rischio, le terapie e soprattutto le modalità di prevenzione appunto dell'insorgenza. Proprio la prevenzione è la parola chiave di oggi. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, che salutiamo. Professor Bandello, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Tra poco la lascio nelle ottime mani di Nicoletta, perché lei sarà uno degli ospiti della tavola rotonda che Nicoletta modererà proprio a Roma. Prima le tocca però la donna di denari, professor Bandello. Allora, nel mondo le cifre sono molto importanti, ci sono 422 milioni di persone con diabete. Dobbiamo tenere conto che il numero è destinato ad aumentare, che si tratta di una patologia che porta con sé un elevatissimo rischio di complicazioni, senza parlare poi di costi. Inquadriamo subito il problema: perché una patologia come il diabete ha delle ripercussioni magari nella nostra totale inconsapevolezza sulla salute dell'occhio e in particolare della retina, professor Bandello? Il motivo è che cronicamente la condizione di iperglicemia, che è quella che caratterizza il diabete mellito, determina delle alterazioni sia dei vasi che del tessuto nervoso. Queste alterazioni a livello retinico si traducono nella retinopatia diabetica, che è appunto la complicanza oculare più importante del diabete e che coinvolge la grandissima maggioranza dei soggetti diabetici che abbiano la malattia da un certo numero di anni. Infatti il fattore di rischio principale per lo sviluppo della retinopatia è proprio la durata della malattia diabetica. quanto più lunga questa durata, tanto maggiore la probabilità che il paziente abbia delle lesioni retiniche. Certo. Quali sono i fattori, professor Bandello, che possono influire sulle manifestarsi della retinopatia o accelerarne la comparsa? Bravissima. I fattori sono anzitutto la durata, come si diceva adesso, la qualità del controllo metabolico, cioè a dire il paziente che si comporta bene, sa gestire bene la malattia, viene premiato da una comparsa più tardiva delle complicanze e da complicanze meno gravi. Viceversa, un paziente che non ha cura di come vanno le cose purtroppo svilupperà le complicanze prima e saranno complicanze più gravi. Poi ci sono degli altri fattori di rischio che sono l'ipertensione arteriosa, che quando associata con la malattia diabetica diventa una sorta di miscela infernale, per cui fatto 2 il rischio da diabete, 2 quello da ipertensione, la somma anziché 4 diventa 5. Certo. Un altro fattore di rischio è la dislipidemia, cioè livelli alti dei grassi nel sangue che si associano a un aumentato rischio di complicanze retiniche. Professor Bandello, ma è una complicanza inevitabile del diabete o ci sono anche persone colpite da questa patologia che non hanno poi questa ripercussione appunto sulla salute dell'occhio? No, ci sono le persone protette e sono probabilmente quelle che hanno geneticamente una minore probabilità di sviluppare le complicanze retiniche. Non si sa bene perché, però esiste un pattern genetico, un modo di essere del patrimonio genetico che protegge dallo sviluppo di complicanze, e viceversa esiste un altro modo di essere genetico che espone maggiormente allo sviluppo delle complicanze. Tant'è vero che ci sono nella vasta quantità di pazienti diabetici, sono quelli che si sono comportati male con il proprio diabete ma che non hanno delle complicanze gravi, e viceversa ci sono quelli che si sono impegnati tantissimo e purtroppo vediamo comunque andare incontro delle complicanze certo. gravi. Quindi, però mi lasci un attimo, voglio dire una cosa che secondo me è un dovere dire. Io faccio l'oculista ormai da tanti anni e devo dire che vedo oggi, così come tutti i miei colleghi, molto più raramente rispetto al passato le forme più gravi di retinopatia, e questo perché sicuramente nell'arco di questi ultimi decenni i diabetologi hanno fatto un lavoro magnifico, la qualità del controllo metabolico è migliorata sicuramente in modo sostanziale, ed è questo il motivo per cui noi oggi vediamo i pazienti diabetici andare incontro alle complicanze più gravi, agli stadi terminali, in una misura percentuale molto più bassa rispetto al passato. Certo, questa sua osservazione, professor Bandello, ci consente naturalmente di sottolineare l'importanza allora della visita oculistica quando si è colpiti da questa problematica. In modo particolare, per fare la diagnosi serve un esame del fondo oculare che permette all'oculista di evidenziare i segni di una retinopatia. Ci spiega meglio questo frangente, questo momento della vostra attività? Sarebbe che i pazienti diabetici finissero dall'oculista prima di avere i sintomi. Questo forse sarebbe la chiave di volta per evitare delle complicanze gravi. L'oculista deve guardare il fondo dell'occhio, e per fare questo ha bisogno di un apparecchio che costa poche decine di euro. Non è indispensabile utilizzare strumenti di alta tecnologia con costi molto elevati. È sufficiente che il paziente si faccia vedere dall'oculista e l'oculista è in grado di diagnosticare la retinopatia. Poi, una volta rilevato un'eventuale retinopatia di un certo grado, il paziente viene indirizzato verso soluzioni diagnostiche e di trattamento eventualmente sofisticate, ma la diagnosi, l'accertamento possono essere fatti con dei costi bassissimi da personale competente. Certo. Adesso andremo agli altri esami aggiuntivi che fanno seguito naturalmente alla visita oculistica, che portano poi alla diagnosi della retinopatia. Lei diceva è bene farla naturalmente perché è colpito da diabete prima che si esprima la sintomatologia, ma quali sono le caratteristiche appunto della sintomatologia, professor Bandello? Sono sintomi chiari, evidenti, appunto, ci può spiegare che cosa avverte il paziente malato di diabete quando ha il dubbio appunto di essere colpito da retinopatia? Sono due: vedere meno e vedere storto. Queste sono le due cose che portano il paziente dall'oculista. Il vedere meno può verificarsi o con modalità molto graduali, molto lente, in genere associato con una difficoltà di lettura, deformazione delle immagini, senso di abbagliamento quando c'è tanta luce e soprattutto delle luci che provengono da di fronte. Mentre un'altra possibilità è quella di avere un improvviso drammatico abbassamento della vista, il che si associa con una complicanza emorragica endovitreale che è tipica di una forma grave di retinopatia diabetica, che è la forma proliferante. Ci fermiamo. Gli altri, sì. Scusi, gli altri sintomi che cui accennavo prima sono più caratteristici della forma non proliferante di retinopatia. Chiaro. E dell'edema macolare diabetico che la complica più spesso. Certamente. Allora, parlavamo prima degli esami a cui indirizzare appunto le persone che sono colpite da questa patologia. Adesso ve li spiegheremo, vi spiegheremo anche qual è la terapia adeguata una volta fatta la diagnosi. Tutto questo però lo facciamo dopo aver sentito i suggerimenti per chi è in viaggio. Cuore e denari. Eccoci tornati insieme. Questa prima parte del programma è dedicata alla giornata mondiale della vista. Il professor Francesco Bandello con noi questa mattina per l'edizione 2016. Questo evento, professor Bandello, la parola d'ordine è Stronger Together, più forti insieme. Come mai è stato scelto questo slogan quest'anno? Perché sicuramente il fatto di agire insieme pazienti, le organizzazioni dei pazienti, i medici di famiglia, gli oculisti, tutti insieme, può significare una svolta nella gestione di questa complicanza. Fare tutti insieme uno sforzo per arrivare presto alla diagnosi, gestire meglio il diabete, curare meglio la retinopatia, può significare evitare dei gravi danni visivi per i nostri pazienti. Mm-hmm. Un commento, una spiegazione ai nostri ascoltatori di quegli esami che devono aggiungersi alla preventiva visita oculistica e a quell'esame del fondo oculare che spiegavamo prima, che permette all'oculista di evidenziare appunto i segni della retinopatia. Ci sono la fluoroangiografia e la tomografia a coerenza ottica. In pratica, che cosa ci raccontano della retina, professor Bandello, questi esami? Io comincerei dall'ultimo di questi esami, cioè dalla tomografia a coerenza ottica, o OCT come più spesso viene chiamata dall'acronimo della definizione inglese di questa metodica. È un esame non invasivo, il paziente non subisce nulla che non sia il fatto di dover poggiare mento e fronte davanti a un apparecchio. C'è poi una luce laser che viene inviata all'interno dell'occhio, questa luce viene riflessa e viene riflessa con modalità differenti a seconda di come è fatta la retina che viene colpita da questo raggio. Quindi in pratica è un concetto analogo a quello dell'ecografia, che utilizza gli ultrasuoni. In questo caso si fa una specie di ecografia con la luce laser. Quello che ne risulta è un'immagine tipo una microscopia in vivo, cioè si ottiene un'immagine della retina che fa vedere i singoli strati retinici, e si ottengono delle informazioni ottime, eccezionali, di quella che è la situazione della retina. Rispetto al passato, questo esame, ripeto, con delle modalità non invasive, dura pochi minuti, non comporta alcun impegno, addirittura non c'è neanche necessità di dilatare la pupilla del paziente. Dicevo, rispetto al passato, questo esame ha significato un passo avanti importantissimo. Mm-hmm. Noi abbiamo informazioni molto più precise, ripetibili, addirittura quantificabili, che hanno fatto la differenza rispetto al passato per quanto riguarda la diagnosi delle malattie retiniche. E per concludere, professor Bandello, due parole sulla terapia giusta per combattere questa patologia. La prima forma di trattamento mi pare di capire che sia il miglior controllo possibile della glicemia, evitandone le oscillazioni. Brava, sicuramente sì. Curare bene il diabete significa curare bene la retinopatia, la prima forma di trattamento. Le altre forme di trattamento, che oggi sono una enorme novità rispetto al passato, sono le terapie intravitreali. Noi oggi siamo in grado, mediante delle iniezioni fatte all'interno dell'occhio del paziente, di far andare le cose in un modo completamente diverso rispetto al passato. Sono state una rivoluzione sostanziale che ha cambiato la prognosi per i nostri pazienti. L'unico limite di queste terapie è che purtroppo hanno una durata limitata nel tempo. Il farmaco dura all'interno dell'occhio un periodo di tempo relativamente ridotto e quindi questa procedura di iniezione intravitreale va reiterata, va ripetuta nel tempo. Però la durata di azione del farmaco, il periodo durante il quale il farmaco funziona, col passare del tempo si allunga, cioè l'esigenza di fare le iniezioni, che nel primo anno vede circa mediamente 7 iniezioni, nel secondo anno questa necessità si riduce a 4, nel terzo anno 2, 1, quindi diciamo la dipendenza dalla procedura dell'iniezione intravitreale si riduce col passare del tempo. Professor Bandello, la lasciamo raggiungere il Senato per la manifestazione La Giornata Mondiale della Vista, coordinata peraltro dalla nostra Nicoletta Carbone. Grazie per essere stato con noi, per averci spiegato queste importanti implicazioni appunto del diabete. Buona giornata, naturalmente buon lavoro per la manifestazione di questa mattina. Grazie. Noi gli ultimi minuti di tempo li dedichiamo ad una iniziativa che in qualche maniera abbiamo avviato proprio qui a Radio 24. Intanto saluto la nostra Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico e scrittrice. Maria Giovanna, buongiorno e bentornata. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Non possiamo dimenticare il fatto che siamo nel cuore del mese di ottobre, un mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ed è tornata a trovarci la dottoressa Luini perché è la nostra moderatrice del diario virtuale che stiamo creando grazie alle lettere che ci mandate, e quindi invitiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a mandarci le loro testimonianze. Continuate a scrivere. Cosa abbiamo ricevuto fino a questo momento, Giovanna? Ma abbiamo avuto testimonianze bellissime, estremamente commoventi, ma positive. Una nostra amica ha raccontato la sua esperienza non solo di malattia, pensa, l'esperienza della malattia con una disabilità che però non l'ha fermata, ha raccontato la vita, ha raccontato quanto sia bello vivere con una disabilità piuttosto profonda, e chi va a leggere sul vostro sito scopre quale. Sì. E poi la malattia, ma ha raccontato la bellezza di essere viva. L'idea che tu e Nicoletta Carbone avete avuto è straordinaria, e sinceramente per me è un onore commentare sulla vostra pagina Cuore Denari a Radio 24, perché le persone che stanno commentando, che stanno raccontando le loro esperienze, ci dicono quanto sia importante la prevenzione, quanto sia importante avere la cura giusta, ma soprattutto quanto sia importante vivere, non dimenticare se stesse. E devo dire davvero, ho rilanciato anch'io sulle mie pagine Facebook la vostra idea, l'ho rilanciata anche stamattina. Credo che le persone abbiano capito il vostro intento. Nel mese rosa, il mese di ottobre di prevenzione rosa, voi volete fare prevenzione anche per l'anima, secondo me, non solo una prevenzione fisica che fate e che predicate e che raccontate. State facendo prevenzione per l'anima, perché davvero stanno rispondendo donne che ci raccontano sicuramente una parte di dramma, ma anche l'importanza di prevenire. Ho sentito la testimonianza del collega e sono molto fiera, tra l'altro, di Nicoletta Carbone al Senato, è molto bello che sia lì. E lui diceva che la retinopatia è diminuita grazie alle cure, ma anche grazie a un comportamento migliore di chi ha il diabete, giusto? Ecco, voi contribuite a questo dando l'informazione, lo state facendo anche nel tumore al seno. Non è un banale mal comune in mezzo gaudio, ma è una condivisione naturalmente di storie, perché sappiamo bene quando si vive appunto questa situazione, quanto ci si possa sentire soli pur essendo circondate da persone che hanno lo stesso dramma. Giovanna, grazie per essere ritornata con noi, ritorneremo presto su questo mese rosa appunto di ottobre, ritorneremo sulle regole fondamentali di prevenzione, tutto quello che una donna deve sapere. Voi intanto continuate ad animare il nostro profilo Facebook con i vostri racconti. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati insieme. Allora, un quadro, visto che non l'ho fatto sufficientemente dettagliato nel corso della prima parte di Cuore e Denari, molto spesso i nostri ascoltatori se ne lamentano, un quadro di borsa. La partenza di questa giornata è stata negativa, il terreno si mantiene negativo con un piccolo cenno di miglioramento, perché abbiamo avuto dei cali anche tra listini continentali di circa un punto e mezzo. Adesso il ribasso è di un punto a Parigi, a Francoforte, Londra meno 0,4, dove la sterlina continua a scendere sempre di più, Milano in ribasso di un punto. Poco fa Abbiamo avuto anche una discesa dell'euro sul dollaro sotto quota 1,10, siamo ai minimi da luglio a questa parte. A Milano i migliori titoli stamattina, Fineco Banca più 4%, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri giornali radio, negli appuntamenti di borsa precedenti. Unicredit ieri ha collocato il 20% del capitale della controllata e ne detiene ancora il controllo con il 35%, ma sta continuando ad andare avanti in questa serie di iniziative di cessioni Unicredit in vista della presentazione appunto del suo nuovo piano industriale sul quale è al lavoro Mustier. STM più 2,82%, oggi in una giornata negativa per gran parte dei titoli di Piazza Affari, Monte dei Paschi si salva e guadagna un punto percentuale, più 0,27% anche per Salvatore Ferragamo. I peggiori, Unipol meno 4,5 punti, Generali meno 2,5, Mediobanca meno 2,5, Fiat meno 2,5, oltre 2 punti di ribasso per Telecom e Ubibanca. È un momento di ritorno di un certo nervosismo in borsa per tanti fattori, un po' per naturalmente anche ancora le questioni legate a Brexit che hanno movimentato come sapete molto la sterlina, ultimamente movimentato verso il basso. Il tema petrolio, siamo in attesa del vertice formale OPEC di fine novembre, ma ancora qua non si sa quanti e quali paesi sono davvero disposti ad un taglio della produzione appunto di greggio per riassestare il livello dei prezzi, siamo oltre i $50 al barile ancora. In realtà vedo il WTI americano leggermente sotto, il Brent del Mare del Nord è a $51,68 al barile. Grande fermento anche nel mercato obbligazionario, magari oggi proprio su questo faremo un focus perché è tutto legato chiaramente alle prossime iniziative di politica monetaria delle banche centrali. Questo è un po' il presupposto della nostra rubrica di oggi, del giovedì. Investire informati. Ma dove li mettiamo i nostri soldi in questo momento? Una gran bella domanda, se lo sapesse Francesco Sandrini, Pioneer Investment, adesso dico tutta la sua carica, sempre lunghissima, no, correttamente, naturalmente, buongiorno e bentornato. Grazie. Se lo sapesse sarebbe venuto qua con un turbante in testa, con la sfera di cristallo, esatto, e chiaramente lui sarebbe ricchissimo, magari spalmato su una spiaggia delle Maldive, non sarebbe qua. Beh, qualche idea probabilmente ce l'ha chi fa il suo lavoro, lei è responsabile del Multi Asset Security Solutions di Pioneer Investment. Magari qualche informazione un po' più dettagliata rispetto a certi scenari di mercato, a certi trend, informazioni che arrivano un po' più alla lunga al risparmiatore finale, che però deve occuparsi in realtà di altro, di fare una pianificazione finanziaria e una fotografia dei suoi bisogni, che non è il lavoro suo naturalmente. Certo. Lei ci racconta un po' quello che succede sui mercati. Da cosa vogliamo partire, Sandrine, stamattina? Da questo grande tema delle banche centrali, tanto per cambiare ricominciamo con questo argomento, ma siamo un po' tutti lì appesi a quello che farà la Federal Reserve, la banca centrale americana a dicembre, a quello che farà da marzo in avanti la banca centrale europea, da quello che ha fatto la banca centrale del Giappone a fine settembre. Beh, sicuramente è il punto del momento, anche perché se vogliamo rimanere costruttivi, se vogliamo sugli investimenti azionari, dobbiamo pensare che questo stimolo monetario rimanga in essere per un periodo di tempo prolungato. Qual è il problema di fondo che crea anche la fragilità di cui lei parlava? Il fatto che fondamentalmente la crescita economica, quello che di solito chiamiamo la crescita del PIL o del GDP, se vogliamo usare l'acronimo inglese, è molto anemica. Abbiamo problemi di natura demografica che vengono combinati a una stagnazione della produttività. Quindi le banche centrali possono fino a un certo punto stimolare l'economia, di solito quello che chiamiamo il recupero ciclico, ma non possono fare tanto su tutto quello che di solito viene più attaccato al treno delle riforme, al treno dei cambiamenti degli assetti interni delle grandi economie. Quindi siamo in una fase in cui, nonostante la relativa, noi usiamo un termine, bonanza assicurata se vogliamo dalla mancanza di preoccupazioni come la Cina, ci ricordiamo inizio anno, però tuttavia questo tipo di situazione si riflette anche sugli earnings, quindi sugli utili delle aziende, che tenderanno in questo contesto a essere non spettacolari. Certo. Come tassi di crescita. Abbiamo già visto qualche anticipazione di questo, di questa sua considerazione, di questa sua previsione, perché è ricominciata la stagione delle trimestrali americane e inizia sempre il gigante dell'alluminio alluminio, Alcoa ha già ricevuto una batosta in borsa considerevole. C'è poi tutto il mondo delle materie prime che ha un suo andamento che qualche volta è anche un po' dissociato rispetto all'andamento di azioni ed obbligazioni, però vale la pena poi fare un ragionamento anche sì, certo, su magari questo. Su questo mi piacerebbe dire che dopo due anni di, se vogliamo, recessione degli utili, specialmente negli Stati Uniti, per la prima volta quest'anno iniziamo a vedere un ritorno ad utili positivi. Non prenderei troppo negativamente la questione di Alcoa, ci sono delle condizioni in atto in questo momento, i tassi mantenuti bassi, il prezzo delle commodity ancora limitato, nessuna pressione forte a livello inflattivo, che mi fanno pensare che gli utili americani siano in realtà meno brutti di quanto inizialmente si sono rivelati. Il mondo delle commodities è un mondo estremamente variegato in questo momento. E certo, è quello che è direttamente legato alla crescita mondiale, naturalmente, perché la domanda che ne fanno i paesi è un segnale abbastanza evidente di quanto e come cresceranno, su che cosa punteranno, no? Quindi è un test importante. Nel caso di Alcoa, per esempio, parliamo dell'alluminio, che è un metallo industriale fortemente domandato dalla Cina, penso che sia un livello attorno al 40% della domanda mondiale di alluminio viene proprio dalla Cina, in cui la produzione è ancora superiore rispetto alla domanda. Non ho invitato, come facciamo sempre, i nostri ascoltatori a chiamarci se volete interagire con noi sui temi legati ai mercati finanziari. 800 24 00 24, naturalmente avete l'opportunità di interagire con noi, fateci le vostre domande, possibilmente che siano riferite a condizioni generali di mercato. Non raccogliamo le domande su come andrà Eni, Enel o Telecom nei prossimi mesi, perché su queste singole storie non vogliamo sbilanciarci, non possiamo neanche farlo, però insomma qualche indicazione di massima sui trend del futuro, anche se poi chi fa le previsioni è sempre un po' martoriato, no? Da chi invece non vede l'ora che queste persone sbaglino. È vero, è difficile farle. Qual è lei ne ha mai fatti di errori previsionali? Ma ne faccio costantemente, sì. Anche perché tendiamo sempre a proiettare una situazione troppo influenzata dal presente su quello che sarà il futuro tra 2, 3, 4, 5 anni. Si può fare una previsione sapendo che ci sono delle componenti di imprevedibilità congenite enormi. E abbiamo visto, però abbiamo visto negli ultimi 10 anni che questa crisi ci ha portato un elemento di sorpresa, almeno uno all'anno, insomma, se non di più. Allora, andiamo, tornando sempre un po' alle iniziative di politica monetaria che influenzano in questi giorni in maniera molto consistente e forte i prezzi delle obbligazioni sul mercato, soprattutto quelle governative. Vorrei fare, prima di ritornare negli Stati Uniti e la Banca Centrale Americana, che comunque viene vista come un'entità molto lontana dai risparmiatori italiani, vorrei fare con lei un commento sulle aste di titoli di Stato in Italia in questi giorni. Perché? E c'è una bella analisi anche di Marcello Frizzone questa mattina sul Sole 24 Ore. Stiamo assistendo ad un movimento strano che vale la pena spiegare ai nostri ascoltatori. Allora, per le brevi scadenze la discesa dei rendimenti continua e si gratta sempre di più il pavimento. Ieri il bot annuale è stato collocato ad un rendimento di nuovo al minimo storico, meno 0,2380%, non era mai stato così basso. Al contrario, le scadenze medie, e qua magari facciamo un focus soprattutto sul nostro amatissimo BTP, stanno riprendendo a salire, si stanno irripidendo. Com'è che si dice in inglese, Sandrini? Steepening. Il fenomeno è quello dello steepening. Così almeno facciamo anche delle traduzioni al contrario questa volta, dall'italiano all'inglese. Un atto di cultura, esatto. Esatto, che non ci fa mai male. Cosa ci suggerisce questa storia che stamattina viene molto enfatizzata dal Sole 24 Ore e anche da altri giornali? Ma un po' il punto da cui eravamo partiti, che c'è un po' la percezione che le politiche monetarie come le abbiamo conosciute siano arrivate al capolinea in termini di impatto sull'economia. Quindi in questo momento si sta ragionando molto di una transizione da politiche monetarie espansive fino a politiche fiscali espansive. Dov'è che il problema, secondo me, si arena? Si arena sul fatto che i bilanci pubblici di tantissime economie mondiali non sono proprio puramente puliti e in grandissima forma dopo anni di crisi risolta con il QE, se vogliamo. Quindi cosa accade? Accade che queste aspettative di una politica fiscale che di solito sarà finanziata emettendo ulteriore debito creano sulle scadenze più lunghe proprio un irripidimento della curva, perché per poter essere piazzati questi titoli richiedono un rendimento più alto. E secondo lei questo è il momento giusto, allora, visto che la curva sta ritornando a salire, per investire sui titoli di Stato a lunga scadenza? Mettiamoci naturalmente sempre nell'ottica di un piccolo risparmiatore. Sicuramente bisogna fare dei distinguo qui, perché più aumentiamo le le scadenze, più chiaramente facciamo un atto di fede sulla crescita e sulla capacità delle varie economie di onorare i debiti che stanno sottoscrivendo. Questo è abbastanza implicito. Oggi, se vogliamo fare un commento contingente sul BTP, abbiamo ancora un regime di rendimenti molto basso, tenuto limitato dalle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, quindi dal quantitative easing, quindi questo agisce come una repressione finanziaria, ci incoraggia come investitori ad andare a prendere rischi di natura differente, il credito, le azioni, e anche andare più lunghi sulla curva, andare a cercare scadenze attorno ai 10, 20, 30 anni. Qual è il problema di fondo? Però di fondo che le incertezze su queste scadenze sono enormi, pensi soltanto all'incertezza sulla costruzione dell'Unione Europea. Possiamo sapere se tra 50 anni l'Unione Europea sarà come l'abbiamo conosciuta, pensi anche solo alle frizioni e le incertezze a livello politico sull'Italia, i dibattiti che esistono dopo Brexit. È un 2,8% sul trentennale, rimane secondo me un punto d'entrata dal punto di vista speculativo o tattico per un operatore come noi, non è quello che consiglierei a un investitore che compri a questi tassi di rendimento per poter dimenticarselo in portafoglio. Intanto oggi il Tesoro mette in asta BTP a 3, 7, 15 anni per un importo totale compreso fra i 7 miliardi e gli 8 miliardi e mezzo. È andata invece molto bene l'asta per il BTP a 50 anni che appunto è stata organizzata la settimana scorsa dal Tesoro italiano. Era la prima volta che il Tesoro collocava appunto un titolo con questa scadenza. La chiamano Matusalemme Bond, ma i Matusalemme non sono quelli perpetui, però anche questi a 50 anni sono quasi perpetui. Beh, qui ci si avvicina. In 50 anni era il 1966, io dovevo ancora nascere. Ecco, penso che ci fosse questo. Una musica anch'io. Differente per radio. Esatto. No, a parte gli scherzi, e vale il ragionamento che facevamo banalmente prima. È un investimento che dal punto di vista di un investitore istituzionale, un investitore qualificato, può avere un senso. Se si ritiene che questo steepening di cui parlavamo prima possa essere in qualche modo un punto di ingresso speculativo, perché la banca centrale reinterverrà ed eviterà un avvitamento della situazione economica ulteriore, questo posso capire che possa essere attraente. Valutazioni diverse vanno a mio avviso fatte per gli investitori, certo, risparmiatori. Infatti all'87% questo titolo è stato sottoscritto da investitori istituzionali stranieri, non peraltro, ecco, mentre per il resto appunto siamo andati su portafogli più piccoli. Comunque spuntare Maria Cannata, capo della struttura del debito pubblico al Ministero dell'Economia, è stata molto soddisfatta di questo tasso che il mercato ha riconosciuto a questa scadenza, al 2,80%, e si è parlato di una finestra irripetibile. Sì, sicuramente è una persona che stimo tantissimo prima di tutto, e sono sicuro che questa finestra sia stata come tempistica particolarmente felice, e sono contento anche da italiano che sia andata così. Anche perché, esatto, per le altre scadenze francesi e spagnola appunto è andata in maniera leggermente diversa. Lunedì invece torna, io lo anticipo già ai nostri ascoltatori perché faremo una puntata anche su questo, il BTP Italia, quel titolo di Stato nato qualche anno fa quando eravamo nel pieno della crisi dello spread nel nostro paese, quindi parliamo dall'autunno del 2011 in avanti, è cominciato tutto nell'estate del 2011, è stata proprio un'invenzione, diciamo, di Maria Cannata per consentire alla platea degli investitori retail, piccoli risparmiatori, di tornare ad acquistare titoli di Stato. Le iniziali scadenze erano di 4 anni, le ultime emissioni sono invece di 8, un titolo che vuole proteggere anche dall'inflazione, ma mi chiedo, in uno scenario ancora deflattivo, Sandrini, ha senso un'emissione di questo genere sulla quale ancora il Tesoro punta molto? Qui mi tolgo il cappellino da professionista, mi metto invece il cappellino da risparmiatore, se vogliamo, e questo mi interessa già di più dell'altro. Mi interessa molto di più perché prima di tutto ci consente di entrare a un livello di inflazione prezzato dai mercati, come lei giustamente diceva, estremamente basso, quindi abbiamo molte meno possibilità di vedere un ulteriore ribasso delle attese di inflazione, ma semmai delle sorprese sul rialzo. Da dove possono venire? Con questo tipo di strumenti io posso avere anche accesso a una serie di sensibilità positive a rischi che possono eventualmente capitare. Pensi soltanto a una discussione, un dibattito politico che possa andare nella direzione di un'eventuale uscita dall'euro in 1, 2, 3, 4, 5, 10 anni, non lo so, ho la sfera di cristallo in questo momento, ma questo per un paese che importa energia, che quindi ha una sensibilità positiva ad avere tendenze inflazionistiche come abbiamo visto in passato, non mi sembra un bruttissimo affare da poter come risparmiatore nel lungo periodo. Allora, ci sono delle domande di alcuni ascoltatori, le prendiamo? Ma certo, sono ottimo. Qua apposta. Allora, andiamo a Franco da Bologna, che salutiamo all'800240024. Franco, benvenuto. Buongiorno a lei, siete bravissime, per fortuna che esistete, che io sono sempre in casa, ho sempre la radio accesa. Ma allora la salutiamo tutti i giorni, Franco, adesso me lo segno, un saluto a Franco di Bologna ogni giorno e passa la paura. Eccoci a lei. Franco, grazie. Ci dica. Allora, io ho dei fondi azionari Pioneer della Cina, America, India, Europa. Siamo un po' in conflitto di interesse, Sandrini non potrà dirle che sono i migliori investimenti del mondo, Franco. No, però è sufficiente che mi dica che ho fatto bene, insomma. Beh, allora, prima di tutto le rispondo, io sono originario di Imola e quindi siamo a 30 km di distanza, le rispondo primo, con piacere. Allora, a parte il commento su Pioneer, penso che lei sia investito nelle aree in questo momento che le stanno dando soddisfazioni. L'India viene da un periodo di ripresa, l'enfasi in questo momento degli investitori professionali è sui mercati emergenti. Lei mi sta citando due economie, che sono quella indiana e quella cinese, che stanno implementando delle riforme importanti e i mercati da qualche tempo li stanno tornando a premiare. Sugli Stati Uniti naturalmente è una storia che va avanti da tantissimo tempo, le valutazioni che noi facciamo come esperti di mercato sono decisamente sul caro. Però, come dicevamo prima, è un'economia che sta ripartendo con un ciclo degli utili positivo. Difficile pensare, almeno nel brevissimo periodo, da 3 mesi a 6 mesi, che al netto di sorprese macroscopiche sulle elezioni americane possano esserci degli storni importanti in questo contesto accomodante di politica monetaria. Certo. Due aspetti dalla telefonata del nostro amico di Bologna. Allora, in primo luogo, chiaramente l'investimento va fatto anche in relazione ai propri bisogni, esigenze, obiettivi di vita, e su questo aspetto mi soffermerò poi con la consulente finanziaria che interpelliamo nella seconda parte del programma, perché bisogna capire se il nostro amico ha fatto un check-up della sua situazione che sia coerente poi con gli investimenti scelti. Lei ha detto, analizzando un po' il portafoglio in maniera chiaramente sulla base delle pochissime informazioni che avevamo del nostro amico, ha scelto delle aree dalle quali sicuramente ha soddisfazione, che possono dare soddisfazione. Ma qual è nel mondo degli investimenti in questo momento il concetto dell'avere soddisfazione, avere un rendimento che superi quello di determinate scadenze dei titoli di Stato che sono a zero? Cioè, è una buonissima domanda, perché noi forse il punto di partenza migliore posso partire da un numero, perché mi sono occupato di questo in una presentazione alcuni giorni fa. Se lei considera gli ultimi 30 anni e si mette nei panni di un investitore americano che avesse comprato 50% di obbligazioni governative e 50% di mercati azionari americani, lei avrebbe ottenuto un rendimento annuo medio di circa 8%. È un numero enorme, si rende conto. Abbiamo visto è stato supportato da tassi che sono continuamente scesi strutturalmente per 30 anni, spread che si sono chiusi, espansione degli utili, ma anche tanto espansione dei multipli, delle valutazioni. Ora, a mio avviso, un po' questo mondo è morto. Prima di tutto gestiamo i prossimi 5 anni con aspettative di rendimento sui mercati obbligazionari governative negative o al limite parzialmente positivi, perché i tassi si rinormalizzeranno, e la stessa cosa accadrà verosimilmente sugli spread quando gli stimoli monetari quantitative easing si chiuderanno. Sulla parte azionaria dobbiamo essere un pochino più selettivi. Naturalmente, in un contesto di tassi pian piano al rialzo, non vedremo più un'espansione dei multipli, vedremo una rinormalizzazione probabilmente del ciclo degli utili, che porterà le aspettative di rendimento su questi mercati non più a 2 cifre, ma probabilmente a livelli di rendimento attorno al 6, 7, 8%. Quindi un portafoglio bilanciato con un orizzonte a 3 anni, 5 anni può avere un'aspettativa di rendimento non più dell'8% come gli ultimi 30 anni, ma verosimilmente per i prossimi 5 anni attorno al 4-4,5%, che non è, insomma, direi male alla luce di come si muovono le borse anche in certi momenti. Ricordiamoci la sberla che abbiamo preso all'inizio dell'anno quando sono andate giù del 30% e molti avevano seguito con i propri investimenti con la stessa percentuale. Quindi qualche volta avere soddisfazione significa anche conservare il proprio capitale, farlo crescere di un po', ma magari in maniera costante per un tot di anni, che direi non è sì, male, senza i fuochi d'artificio. Mi lasci fare una precisazione velocissima. Per i motivi che abbiamo detto, ci stiamo muovendo in un contesto fragile dove probabilmente assisteremo a volatilità dei mercati mantenute basse dalle banche centrali, ma come eventi tipo quello a cui abbiamo assistito a gennaio e febbraio sempre più presenti. Quindi la parola d'ordine è quella di prudenza, soprattutto quando si costruiscono i portafogli, perché la volatilità è probabilmente un fenomeno che vedremo crescere nei prossimi anni. Allora, attenzione quindi alla volatilità. Direi che possiamo fermarci adesso per dare la linea a me stessa, che devo raccontare i mercati finanziari, quindi torno con voi tra pochissimi istanti. Poi sono pronti Paola da Milano, Silvano da Udine e anche la nostra prossima ospite tra pochissimo. Siete bravissime, per fortuna che esistete, che io sono sempre in casa, ho sempre la radio accesa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Non credo ci sia nessun bambino e soprattutto nessuna bambina che pensi di intraprendere una carriera simile alla mia. Probabilmente i bambini ignorano l'esistenza di un lavoro del genere. Di solito, quando in età d'asilo viene chiesto loro «Tu cosa vuoi fare da grande?», la maggior parte risponde «Il poliziotto, il pompiere, o la dottoressa, la maestra, l'astronauta». Eppure il mio è un lavoro necessario, complesso, utile socialmente, un lavoro bello. Un lavoro bello perché ci sono persone che hanno deciso di venire da me e affidarmi il loro presente, il loro passato e il loro futuro. E io devo fare in modo di proteggere quello che hanno guadagnato in una vita. Soldi che hanno spesso messo da parte centesimo su centesimo. E io li aiuto affinché i loro risparmi fruttino e le loro aspettative siano preservate. Li aiuto perché il denaro non sono solo banconote. Il denaro è fatto di desideri e di ambizioni. Ha la forma di futuro e la consistenza dei sogni. La voce è quella di Mario Nutarelli, ma la storia è quella di una donna, si chiama Antonella Lambri, è una consulente finanziaria di Fidenza e noi abbiamo voluto oggi invitarla a Cuore Denari nella rubrica del giovedì Investire Informati, perché ha scritto un bel libro che si intitola Passione Finanza, racconta la sua storia professionale, ma soprattutto ci racconta anche come in questi ultimi anni è stato difficile relazionarsi con i clienti, con le persone che naturalmente si sono anche un po' spaventate rispetto a questi scenari di mercato che sono e continuano ad essere, sono stati particolarmente confusi. Noi l'abbiamo invitata, Antonella Lambri, buongiorno e benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di questo invito speciale. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Consulente finanziaria, dicevamo, di Fidenza, di un grande gruppo italiano, peraltro per stasera organizzato per tutti coloro che saranno in zona, magari li invitiamo a venirla a trovare. Certo. Antonella, alle 18.30 in Piazza Duomo c'è l'inaugurazione dello spazio Salotto Finanziario, perché lei ha detto, adesso a prescindere dal mio lavoro, quello che io voglio fare è anche favorire l'educazione finanziaria nel territorio. Un grandissimo lavoro, un grande impegno. Come mai ha sentito l'esigenza anche di intraprendere un'iniziativa di questo tipo? Ma intanto Salotto Finanziario ci ricorda subito un ambiente familiare della nostra casa, un ambiente domestico. Il salotto è l'ambiente in cui riceviamo i nostri ospiti, i nostri amici, per dialogare tranquillamente di vari temi. E questo è quello che noi faremo qui a Fidenza. Salotto Finanziario verterà fondamentalmente su temi di natura finanziaria, per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e per riportare al centro dell'attenzione della finanza l'uomo con tutte le sue problematiche, i suoi bisogni. Quindi contro l'idea di una finanza speculativa che quando, ahimè, si manifesta crea sempre dei danni, li abbiamo visti in queste crisi finanziarie, riaffermiamo il ruolo sociale che il consulente finanziario deve avere nel territorio in cui opera. Allora, noi in questa trasmissione, Antonella, lo ricordo anche a lei, parliamo di mercati finanziari con l'obiettivo di fornire ai nostri ascoltatori gli strumenti per capire i fatti e capire come mai questi fatti spesso riescano a condizionare le sorti dei nostri risparmi. Ovvio che le scelte di risparmio e di investimento, noi lo raccomandiamo sempre con grande forza, vanno fatte nella consapevolezza di quelli che sono i nostri obiettivi finanziari e sono scelte che vanno fatte con una guida adeguata. Allora, quante volte mi rivolgo rivolgo di nuovo ai nostri ascoltatori, ci avete chiesto: ma come faccio a scegliere un buon consulente finanziario? L'abitudine della mia famiglia è quella di andare in banca, ma io vorrei ampliare un po' i miei orizzonti. Il panorama di riferimento è molto ampio, perché ci sono migliaia di promotori finanziari e consulenti finanziari, consulenti indipendenti. La vostra categoria si è ampliata a dismisura, Antonella, in questi anni, e quindi vorrei aiutare anche i nostri ascoltatori a scegliere la persona giusta per i propri bisogni. Ci racconta un po', ci dà intanto qualche dritta su questo, poi parleremo del suo libro, perché la sua è una storia professionale anche molto bella, che mi piacerebbe trasferire ai nostri ascoltatori. Ma andiamo subito al concreto invece di questa esigenza avvertita da molti. Scegliere il proprio consulente finanziario intanto è un dovere e un diritto, cioè ognuno di noi, ogni persona ha il diritto di avere un partner finanziario, come scegliamo il nostro medico di fiducia, come scegliamo il notaio, il commercialista. Quindi appurato che bisogna sicuramente garantire delle competenze tecniche, e qua l'iscrizione all'albo del promotore, dei promotori finanziari è il primo passo. La certificazione EFA, European Financial Advisor, è un'ulteriore conferma della validità del professionista che abbiamo di fronte. Quindi le doti tecniche dimostrate dalle varie certificazioni sono la base e le diamo per scontato. Però poi c'è anche tutta quella fine capacità di analisi psicologica che il consulente deve avere. E quindi il cliente poi deve trovare il consulente con cui si trova meglio. Ha il diritto di cercarlo e di trovarlo, quindi magari non fermarsi al primo contatto, rivedere la persona più volte, rivedere anche tante persone, perché si deve creare un feeling sicuramente personale, perché si tratta poi di lavorare insieme. E certo, magari per un bel numero di anni, no? Perché non si tratta di scegliere solamente dopo un primo, un secondo, un terzo incontro, una soluzione di investimento che possa andare bene per un tot di anni, ma si tratta poi di fare una manutenzione di quell'investitore della vita, costante, periodica, certo. E poi si segue tutta la famiglia, quindi ci si occupa del passaggio generazionale, per cui è la cosa più bella quando poi il cliente si presenta la famiglia, i figli. Si fa un lavoro d'equipe. Mm-hmm. Passione Finanza, come è nato questo libro? La storia di Antonella Lambri è molto bella, perché personale e professionale. È laureata in lettere, ma è stata folgorata sulla via di Damasco, ma sarebbe meglio dire Antonella sulla via di Londra dalla finanza, no? Perché in occasione di questo viaggio che doveva fare con un'amica, questa amica che ha dovuto rinunciare a questo viaggio a Londra per delle sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia, le hanno fatto dire: io d'ora in avanti voglio occuparmi delle storie finanziarie, delle storie di risparmio, appunto, delle persone che incontro, perché non voglio più vedere storie come quella che ha vissuto la mia amica. Ho sintetizzato bene la sua scelta? Assolutamente, sì. E il fatto di potersi rendere utile, quindi dare il proprio contributo al proprio territorio, e io ho pensato di farlo in ambito finanziario, sì. Allora, il libro, glielo racconto, perché è stata un'esperienza molto bella. È nata da un'esperienza che ho potuto fare l'anno scorso alla trasmissione La Versiliana. Sì. Ecco, e ho incontrato una giornalista che mi ha proposto questa idea e che io ho accolto con molto favore. La storia del libro, Passione Finanza. Dove tra l'altro ha inserito anche il decalogo dell'investimento felice, che adesso proporremo ai nostri ascoltatori. Prima però vorrei ritornare anche al nostro ospite, appunto, di Pioneer, il dottor Sandrini, perché ci sono anche molti ascoltatori in attesa che erano pronti con le loro domande e continuano ancora ad interrogarsi su come potranno andare i mercati finanziari, soprattutto su certi ambiti. Allora, chiedo anche ad Antonella Lambri di rimanere con noi, perché poi la metto alla prova, Lambri, le faccio sentire anche qualche ascoltatore, le chiedo anche a lei una consulenza così molto estemporanea, volentieri. Anche se molto non si dovrebbe volentieri. Mai fare in questa maniera qua, però ci proviamo, perché anche noi vogliamo coccolare i nostri ascoltatori. Allora metto insieme Paola da Milano e Fabrizio da Firenze, perché più o meno chiedono lumi su un argomento simile, per cui li mettiamo uno via l'altro insieme. Paola, benvenuta. Buongiorno, anzitutto vorrei aggiungermi ai complimenti che ricevete, meritati, da tutta Italia. Bene. La domanda, se mi passa il termine, secca è questa. Sì. È opportuno non impiegare un forte capitale, comprare delle sterline, visto che è così bassa? Grazie per la risposta, certo, che potrete dare. Grazie Paola, grazie mille. Fabrizio da Firenze, buongiorno. Sì. Anch'io, praticamente in un'ottica di diversificazione, avendo un orizzonte temporale piuttosto lungo, Mi domandava appunto se aprire un conto corrente sterlina inglese poteva essere non soltanto una scommessa, e il petrolio a questi prezzi se ha dei fondamenti validi per salire. Grazie Fabrizio. Peraltro di petrolio anche ieri ci siamo occupati dal punto di vista di chi fa il pieno di benzina in realtà, ma insomma l'auspicio è per il mercato che raggiunga un range di prezzo stabile fra i 50 e i 60 dollari, per cui non so ancora qua, beh, però insomma prima che arrivi a 60 un po' ce n'è, quindi il nostro amico Fabrizio ha visto l'opportunità di investimento. La faccio riflettere un po', Sandrini, andiamo in pausa e poi torniamo con la sua risposta. Ottimo. Cuore e denari. Non fidatevi di nessun consulente, ci ha scritto un ascoltatore. Io ho dato 110.000 euro, dopo un anno me ne ha restituiti 104.000, mi sono raccomandato e mi ha garantito che non avrei perso nulla. Qua bisognerebbe analizzare molto nel dettaglio questa storia, chissà che tipo di dialogo c'è stato. Antonella Lambri, voglio ricoinvolgerla subito prima di andare alla sterlina, perché qualche volta sì. Esatto, chissà come si sono confrontati questa persona col suo consulente. Guardi, se hanno parlato volte. Chiaro reciprocamente. Anche tante persone mi dicono questa cosa, di solito si rivolgono a me più clienti che sono seguiti dalle banche, però capita ogni tanto anche di esperienze negative con consulenti finanziari. Intanto è tipico di ogni professione, cioè la maggiore o minore professionalità, però se vado da un medico e mi sbaglio un intervento non è che posso dire non vado più dal medico, ho scelto il medico sbagliato, quindi devo sicuramente fare una maggior selezione. Anche perché comunque l'investimento richiede, dicevamo, un monitoraggio. Quindi dopo un anno ripresentarsi dal consulente senza esserci sentiti per tutto un anno mi sembra un po' troppo. Detto questo, sì, magari era un investimento, che ne so, un fondo completamente azionario, con quello che è successo quest'anno, esatto. Magari insomma forse potrebbe essere già una soddisfazione il fatto che abbia perso questi 6.000 euro che magari recupererà ancora in un paio d'anni. Forse è troppo breve il tempo per fare un bilancio così drastico. Che probabilmente anche da parte del consulente è mancata la giusta informazione, la giusta comunicazione. Comunque il cliente deve essere sempre consapevole di quello che sta succedendo sul proprio portafoglio, ma riportandolo su un orizzonte temporale corretto, il cliente capisce e quindi il tempo poi darà comunque i suoi frutti nell'investimento. Allora, Francesco Sandrini, apriamo questo delicatissimo capitolo sterlina. Dopo la Brexit, il precipizio ne ha beneficiato molto la borsa di Londra, naturalmente, certo. Soprattutto le società che esportano e che hanno tratto vantaggio da una moneta fortemente svalutata, e però addirittura adesso qualcuno, anche il piccolo risparmiatore, la vede come occasione di investimento. D'altronde lo diciamo sempre, bisogna comprare sulla debolezza e non quando i titoli, le obbligazioni quando sono ai massimi del prezzo, naturalmente questo vale anche per la valuta, ma direi maneggiare con cura la sterlina. Con assoluta cura. Allora, il fatto di comprare sterline in questo momento, le dico la verità, è una valutazione che anche sui nostri desk stavamo facendo, però con un orizzonte speculativo a 1 a 3 mesi per poter generare valore per i nostri sottoscrittori di fondi. Detto questo, per un investimento più di lungo periodo andrei estremamente cauto. L'Inghilterra ha grossi squilibri strutturali sia sul bilancio primario, cioè banalmente la differenza tra gettito fiscale e uscite fiscali, e poi sulla parte commerciale. Queste due situazioni, unite a un contesto di incertezza totale su quella che sarà la negoziazione del famoso articolo 50, sì, ci portano a pensare che l'Inghilterra abbia troppe incertezze davanti per poter essere in un percorso di recupero di credibilità e di crescita economica. Cioè, io non sono convinto che il peggio sia già stato riflesso dai mercati, ma andrei con estrema cautela, fidandomi in questo caso a un investitore professionista. Ci saranno le finestre speculative come questa, ma non sono ancora investimenti che possiamo portare avanti con un'ottica strutturale. L'idea appunto è chiara, quella che lei ci ha espresso: se volete farlo, lo fate in un'ottica speculativa e preparatevi anche a ricevere delle sberle sonore nel caso in cui le cose non vadano come appunto il punto è proprio questo, immaginate. Che nessuno a nessun livello, ma penso neanche a livello di Unione Europea, dei massimi vertici, ha un'idea oggi di come potrà essere affrontata la negoziazione di ogni singolo articolo. Quindi questo porterà delle implicazioni di natura differente e la sterlina si muoverà su quelli che tecnicamente noi chiamiamo i rumors. Certo. In questo caso la sterlina ha avuto un ulteriore scivolone proprio per il fatto che è stata quasi automaticamente fissata definitivamente una data in cui inizierà il processo di fuoriuscita di scena. Ecco. Assolutamente. E invece sul petrolio? Allora, sul petrolio sarei leggermente più costruttivo per un motivo, che ci sono una serie di interessi che stanno andando nella stessa direzione. Io le dico la verità, prima dell'ultimo incontro OPEC pensavo che il petrolio, noi come gruppo, sarebbe stato in un intervallo tra i 40 e i 50 per un periodo molto prolungato di tempo. Questo è chiaramente un fattore che cambia la dinamica dei giochi. Se vogliamo andare a vedere gli operatori coinvolti, principalmente vorrei vedere l'Arabia Saudita, ha un incentivo a portare il prezzo del petrolio nei prossimi 1-3 anni a un livello leggermente più alto. Non parliamo degli 80 dollari, dei 90 dollari, parliamo di livelli attorno ai 60-65 dollari al barile per la WTI e in generale su tutta la parte che viene trattata attorno a questo composito. Perché? Perché prima di tutto è in un processo in cui vogliono quotare Aramco, che è la principale compagnia che opera in quel settore, quindi naturalmente hanno bisogno di un livello del petrolio che supporti questo tipo di quotazione sul mercato. Certo. E secondo motivo grosso che vengono da alcuni anni di tensione sul mercato petrolifero legata al fatto di questa dicotomia tra i produttori americani a basso costo e loro che sono in assoluto a livello globale i produttori a costo più basso. Cosa significa? Significa che l'Arabia Saudita oggi ha un costo enorme nel tenere il prezzo del petrolio basso, deve finanziare un'economia largamente basata su sussidi pubblici e questo crea un disavanzo fiscale enorme, attorno al 20% del bilancio. Quindi chiaramente è una situazione sostenibile per alcuni anni, non per sempre. L'allineamento di queste cose, unita alla geopolitica, visto quello che sta accadendo con la Russia, mi porta a pensare che nei prossimi 3-6 mesi vedremo probabilmente un leggero incremento del prezzo del petrolio verso i livelli di cui parlavamo prima. Speriamo di aver soddisfatto le esigenze di informazione dei nostri ascoltatori. Intanto vi faccio ascoltare il decalogo dell'investimento felice tratto dal libro Passione Finanza di Antonella Lambri. 1. Investire sempre in qualcosa che sia chiaro e comprensibile. 2. Affidarsi a persone con cui si ha un rapporto trasparente ed empatico. 3. Diversificare i propri asset. 4. Monitorare gli investimenti con regolare periodicità, non troppo né troppo poco. 5. Porsi alcuni obiettivi a breve termine e altri a lungo termine. 6. Informarsi, acquisendo una cultura finanziaria. 7. Avere un atteggiamento positivo e ottimista, credendo nel futuro. 8. Scegliere strumenti mai bloccati e facilmente liquidabili. 9. Pensare al bene della propria famiglia. 10. Prepararsi al passaggio generazionale. Pochi minuti di tempo per i nostri ospiti prima dei saluti, pochissimi. Antonella Lambri, ci sembrano tutte indicazioni di totale buonsenso, ma perché è sempre così importante rimarcarli ogni volta, magari di fronte a clienti nuovi? Perché è facile farsi prendere dalle emozioni, dall'impulsività, e anche nelle scelte degli investimenti finanziari. E quindi, insomma, riportare l'attenzione sempre sulle cose di base sembra banale, ma non lo è. Non lo è. Bisogna partire da lì, ecco, dalla semplicità. Lo rimetteremo su Facebook, questo decalogo dell'investimento felice, e lo faremo così declamare come una preghiera ogni giorno ai nostri ascoltatori. Antonella Lambri, grazie per essere stata con noi. In bocca al lupo per il suo incontro di stasera, per il suo libro Passione Finanza. L'ultima domanda per Francesco Sandrini: il 4 dicembre c'è il referendum costituzionale in Italia. Su questo risultato elettorale ci dobbiamo aspettare particolari reazioni di mercato? Un minuto di tempo. Assolutamente sì, ci dobbiamo aspettare una tensione sui mercati. E i sondaggi sono abbastanza bilanciati in questo momento tra il sì e il no. Ricordiamoci che, per quanto noi possiamo vedere le criticità sugli interventi di Renzi operati in Italia, a livello europeo è stato uno dei pochi leader percepiti come quelli che hanno portato avanti un treno molto lento di riforme pro crescita. L'Italia ha un problema sostanziale di crescita potenziale vicino allo zero, anche per una demografia tutto sommato infelice, non c'è tanto tempo per poter fare le riforme. Detto questo, questo referendum viene dopo Brexit. Questo referendum parlerà di sostenibilità della costruzione europea e di quale può essere un percorso politico per poter alimentare. 2016, un anno che non dimenticheremo facilmente, come tutti quelli, come gli ultimi 10 direi. Grazie a Stefano Sandrini, a Francesco Sandrini per essere stato con noi. Pioneer Investment, ci risentiamo presto. Cuore Denari termina qui, ma noi torniamo domani regolarmente in tandem con Nicoletta. A tutti, buona giornata.